E allora, sempre in diretta sugli 87.9, come vi dicevamo poco fa, siamo in diretta con il controvertice Italia-Israele. Ci senti? Sì. Ci vuoi dire che cosa state facendo? Allora, noi siamo in questo momento stiamo sulla Tiburtina, stiamo bloccando la Tiburtina davanti alla sede della Telespazio, che è una delle aziende del gruppo Finmeccanica, che oggi siglerà gli accordi nel vertice di Villa Madama tra Netanyahu e Letta, e che rappresenta un po' diciamo il fiore all'occhiello delle industrie belliche italiane che collaborano con quelle israeliane, speculando di fatto sulla morte di migliaia di cittadini palestinesi e riportando poi le loro pratiche di morte anche qui in Italia. E siamo qui davanti alla Telespazio, qui sulla Tiburtina accanto alla Metro di Re Bibbia, e ci teniamo a dire che non vogliamo nessun vertice alle nostre teste, e che soprattutto non vogliamo che vengano siglati oggi gli accordi di cooperazione industriale e bellica, scientifica e accademica fra Italia e Israele nel vertice di Villa Madama. Ascolta, oggi c'è appunto questo vertice, sapete, appunto, oltre a quello che hai appena annunciato, quelli saranno gli argomenti, insomma, di discussione di questo vertice qua, perché poi sappiamo che Italia e Israele hanno una forte relazione soprattutto industriale e sulla ricerca. Sì, esatto. Diciamo che fondamentalmente gli accordi si dividono in tre parti. Sono gli accordi di cooperazione internazionale, quindi attraverso le ONG, i progetti da proporre su quel territorio, e soprattutto ci saranno gli accordi tra le industrie belliche e soprattutto l'università, che ultimamente è stata un po' il centro, il fulcro della cooperazione tra il governo italiano e il governo israeliano. Ricordiamo appunto che il governo italiano è il secondo maggior partner commerciale di Israele, e per quanto riguarda soprattutto il tema della guerra cibernetica. I centri di ricerca della FADES dell'Università di Firenze, insieme alla Vitrocise e Tassi in Meccanica, alla Maglan e quindi appunto anche a Telespazio, organizzano continuamente degli scambi sia di ricerca che proprio di personale fisico per migliorare le loro infami tecniche di morte che vengono appunto riproposte ogni giorno sulla popolazione palestinese, e una segregazione, un apartheid di cui noi stessi siamo complici, fornendo appunto mezzi, uomini e conoscenze al governo israeliano per affinare le loro tecniche di controllo e di repressione. Sì, è difficile diciamo contestare questi vertici, anche perché si rinchiudono in posti inaccessibili e poi dispiegano insomma numerose centinaia e centinaia di uomini per poter evitare qualsiasi contrasto a queste riunioni, che insomma sono sempre contestate e le vogliono allontanare, tant'è vero che prima era a Torino l'incontro e l'hanno spostato a Roma, anche per problemi proprio di sicurezza, le chiamano loro, quando è giusto insomma che si esprima il proprio dissenso nei confronti di questi vertici. Questa non è la prima diciamo azione che avete fatto contro appunto il vertice. Avete anche occupato la sede dell'AGI, se non mi sbaglio. Sì, sabato abbiamo occupato la sede dell'AGI, siamo stati lì un paio d'ore, abbiamo preteso che l'AGI pubblicasse un comunicato che noi avevamo scritto appunto per denunciare quello che stava accadendo, per denunciare quello che poi stava passando un po' in sordina sui media, perché ovviamente poi si tende sempre a far passare qualsiasi tipo di polemica contro Israele o contro gli accordi che si fanno fra Italia e Israele come diciamo con la bandiera dell'antisemitismo, quindi che si viene sempre accusati di essere razzisti, di avere delle posizioni che sono di odio razziale, e diciamo Israele si difende, cioè le polemiche contro Israele, le sue e le sue politiche di morte vengono sempre si nascondono, diciamo, dietro al dito di questa, sempre di questa scusa. Noi questa accusa la rimandiamo totalmente al mittente, l'abbiamo scritto anche sul comunicato pubblicato dall'AGI, perché il nostro non è assolutamente un discorso razziale, è un discorso prettamente politico e economico, perché sappiamo bene Israele come sia importante nello scacchiere geopolitico delle grandi oligarchie economiche occidentali, e sappiamo bene qual è la politica di segregazione e di apartheid che mette in atto. Quindi i veri mercanti di morte, i veri razzisti, i veri speculatori sono loro, e lo sappiamo benissimo. Abbiamo preteso che venisse pubblicato questo comunicato dall'AGI, perché poi i media sono sempre complici di tutto questo meccanismo, essendo ovviamente asserviti al potere, fanno una campagna terroristica sia contro le polemiche che vengono fatte a questi vertici, sia contro le azioni che vengono portate avanti, e le mascherano sempre con questa scusa dell'antisemitismo, che poi è il perno fondamentale dietro cui tutta la campagna mediatica si concentra, insomma. Va bene, noi ti ringraziamo per il tuo contributo e per qualsiasi cosa, insomma, ci sentiremo più tardi. Un ringraziamento a tutti, insomma, e grazie per appunto l'intervento. Grazie a voi, a presto, Palestina Libera.